Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Quando sono le 8:20 minuti, eccoci qui, caro Oscar. Anche oggi in diretta, pure per pochi giorni fino alle 9:30. Sì. Felici perché il Milan ha vinto. Questo felice, è un colpo basso perché dice Oscar, ma no, chi se ne frega. No, dice. No, io tutto ciò che porta più felicità al mio fratello lo considero fondamentale. Va bene, va bene. Anche ringrazio. Perché soprattutto quando queste occasioni di felicità sono rare. Capisci? Ma mica è perché è una critica. Statisticamente da un po' di tempo sono rare. Ti auguro che invece la squadra, quando i cinesi daranno garanzie bancarie serie, sì, l'hai letta perché, la perché storia. Pare sì, il nostro amico Daniele Lepido c'è scritto su Twitter, mi ha scritto e pare che i cinesi abbiano dato delle garanzie bancarie a monte, cioè all'inizio del fasulle, un po' di quelle un po' cioè taroccate volanti. Il tarocco, questa è l'accusa, chissà, forse realtà... No, le ipotesi sono due: uno per verificare la serietà di chi avevano di fronte, sì. La seconda è per adeguarsi. Ah. Vabbè. Chiedere a Forchielli. Speriamo, vediamo. Allora, chiederò dai, a Forchielli. Comunque, insomma, sarà un caso, sarà la necessità. Intanto, Bacca la infila dentro. Esatto, e vince, quindi va bene così. E vince pure l'Inter. È una specie di cosa miracolosa. Poi, come al solito, la Juventus smette di farvi illudere. E ta-ta-tan, ecco. È ovvio. Allora, San Matteo oggi. Matteo, l'evangelista, che come forse molti dovrebbero sapere, ma comunque ve lo ricordiamo. Mm-hmm. Matteo, l'autore dei quattro Evangeli, quello scritto in ebraico, cioè in aramaico, rivolto in altre parole a chi era lì. Ma Matteo perché è fondamentale? Perché ci dice il destino di coloro che si credono portatori di una supremazia etica. Che cosa faceva Matteo? Lavorava all'Agenzia delle Entrate. Questo faceva Matteo. Scuoteva le tasse. Famoso pubblicano. I pubblicani, la gente dice che erano questa roba qua. E per gli ebrei dell'epoca era il lavoro più schifoso, sgradevole, odioso del mondo. Ma perché? Perché erano gli agenti di uno Stato che veniva considerato oppressore. Quanto, vedete, il popolo eletto mica sbagliava in queste cose qua, rifletteteci. Ci ritrovi un po' in questa storia. E rifletteteci, Matteo è la parabola della redenzione. Perché? Perché deve abbandonare il suo lavoro, deve spogliarsi delle proprietà che derivano dall'aver rapinato nelle tasche dei poveri contribuenti. E quindi viva San Matteo. Cari amici e amici dell'Agenzia delle Entrate, riflettete su come si fa la redenzione. Sulla storia di San Matteo. Sì, se volete redimervi dovete cambiare mestiere. Questo è la sintesi. Cambiare mestiere, lui ha cambiato mestiere. Come ma no? Ma sì, è così. È un po' come oggi anche San Giona. San Giona è profeta perché San Giona è un profeta un po' che si lamentava. Cioè il Signore gli diceva: vai là, fai questo, fai quello. E lui diceva: io sto così bene qua. E la faccenda che anche i bambini sanno, cioè la balena che si mangia Giona, è anche quella una cosa della redenzione. Solo se tu sei renitente, devi passare attraverso un cammino lungo, compreso essere digerito ed espulso poi dalla bocca di una balena. Così per Matteo, chi raccoglie le tasse in maniera rapinosa, non dico tutti, in maniera rapinosa, deve cambiare mestiere. Se vuole mestiere. Andare in paradiso, cara Orlandi dell'Agenzia delle Entrate, questa è la parabola mestiere. Del giorno. Vedi qua Oscar, aspetta, cos'è sto falso fatto del falso delle garanzie bancarie? Allora, lo sapevo. No, allora riepiloghiamo. Per quello ho messo secondo Bloomberg, i cinesi che si vogliono comprare il Milan secondo avrebbero... Bloomberg, non l'ultima delle fonti. Esatto, Bloomberg. I cinesi che si vorrebbero comprare il Milan avrebbero dato delle garanzie bancarie all'inizio dell'affare. Un po' così. Tarocche. Per dire guardate come siamo solidi in banca, in realtà producendo dei documenti fasulli. Ecco. Questo è, ve la diamo, ve la giriamo come la dice Bloomberg. Come la dice Bloomberg, sarà stato figlio della fretta, poi sarà stato sicuramente tutto messo a posto. Non sarà vero, Oscar, non magari sarà vero. Dubitiamo anche, dubitiamo. Diciamo, io spero, dico non magari sarà vero, anche, non lo so. Anche le garanzie bancarie di chi vende sono anch'esse, ma certe, che ne possiamo sapere? Che ne possiamo sapere? Comunque, chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. E soprattutto alla fine c'è sempre Brad Pitt, può pagare per tutte. Esatto. No, noi non parleremo di Brad Pitt e Angelina Jolie approfonditamente con ospiti. Se volete, a dire che se volete diciamo qualcosa, come tutti, come, insomma, il patrimonio dei due non è proprio del tutto limitatissimo. Se scappa qualche cosa per sostenere anche un po' qualche sport italiano, siamo favorevoli. Troveranno un accordo comunque. A me fa ridere, no, solo Oscar, per aprire e chiudere la vicenda, tutti quelli che dicono: ma come, lui era un padre che sembrava così un padre perfetto. Ma chi lo conosce? Tu l'hai mai frequentato, Brad Pitt? Veramente, per no, sapere se è un padre manca, modello, se Angelina è una madre modello. No, no? Soprattutto io non credo per definizione però alla tesi della moglie, quindi ecco, mica quindi hai detto che non lo sia perché lo dice lei. Stai con Brad comunque. No, ma come si fa? In queste occasioni l'unica cosa che uno può fare da lontano è riportare, vista l'autorità della coppia. No, parleremo invece di legge elettorale, comunque di politica, qualcosa si muove, lo faremo dopo la pubblicità, più avanti, con Laura Castelli del Movimento 5 Stelle e Maurizio Belpietro, che è direttore della Verità, questo quotidiano che è nato oggi al secondo numero. Oggi al secondo numero. Però prima vogliamo ancora parlare di Libia, perché sì, a me ha molto colpito leggere sui giornali che la società per cui lavorano questi due rapiti in Libia, dice la Farnesina, non era neanche registrata, non ne sapevamo nulla, non sapevamo che fossero. Corriere parla di una società, tra virgolette, quindi mettendo le virgolette attribuisce alla Farnesina questa definizione, la società ignota alla ignota. Farnesina. Ma com'è possibile che uno vada a lavorare in Libia? Ma chi ci crede? Tu non ci credi? No. No, lo escludo. Lo escludi. Ho elementi per poter ragionevolmente escludere, cari ascoltatori, che ci siano imprese che lavorano in infrastrutture come aeroporti, tipo quello dei GATT in Libia, nella totale ignoranza dell'autorità italiana. Sono ragionevolmente certo di quello che dico, quindi la notizia diventa: come mai la Farnesina scarica? Ecco, questo semmai. Cioè, come mai, esatto, la Farnesina in maniera così pubblica dice non ne sapevamo niente? Ha sodato il fatto, secondo Oscar, che non è possibile una cosa del genere. No. Guarda, noi abbiamo chiamato Oscar Gianluca Salviato, che è stato rapito in Libia, è stato 8 mesi rapito. Buongiorno Salviato e ben trovato. Buongiorno a lei e al dottor Giannino. Lei lavorava per la Enrico Ravanelli di Venzone, in provincia di Udine. Sì. Intanto le chiediamo, insomma, può calarsi in questo momento, per la sua esperienza, nella mente di questi due connazionali, cosa possono provare in questi momenti di rapimento? Guardi, ogni volta che accade un rapimento o una cosa del genere io ritorno indietro, quindi mi ci calo completamente. I primi momenti, i primi giorni sono quelli più duri, secondo me, perché da come li ho vissuti io, perché sei in uno stato confusionale, sembra qualcosa di non reale quello che accade, c'è molta paura, almeno da parte mia c'era. È il momento di tenere ferma la mente, capisce? Perché io ero da solo, loro sono in tre, magari possono anche sostenersi uno con l'altro. Certo, ricordiamo che c'è un canadese anche che è stato rapito. Sì, c'è anche un canadese. Le pare verosimile l'idea che questa azienda fosse lì a lavorare e gli italiani non fossero registrati al nostro Ministero degli Esteri? Non vorrei smentire il dottor Giannino, ma capita che ci sono parecchie aziende che vanno in paesi come la Libia o altri paesi dell'Africa senza essere registrati, magari hanno una branch lì, aprono una sede lì e i dipendenti o sono assunti in loco o non risultano, perché magari in Libia oggi si entra solo dalla Tunisia e dall'Egitto, quindi può capitare. Poi mi sembra, da quello che ho saputo io negli ultimi mesi, che non ci sia più l'obbligo di registrare i dipendenti all'estero, alla Farnesina. E quindi le pare verosimile, ma no, io mi limito a dire che siccome chiedevo ogni mese se lo sviluppi in corso in Libia a Farnesina diciamo, a chi parla per i servizi intelligence italiani, avete la piena cognizione delle imprese lì e avete la piena cognizione di chi lavora lì? La risposta era: abbiamo fatto tutte le ricognizioni aggiuntive, visto che fino a 3 anni fa capitava che c'era gente che non conoscevamo, e dicevano tutti: li sconosciamo uno per uno. Poi probabilmente può essere di tutto, però le fonti riservate italiane dicevano: abbiamo la cognizione precisa. Certo, ma prego. Quello che ne so io, perché comunque avendo vissuto a contatto, certo, anche con me c'erano persone che non erano registrate, comprende. Poi la Farnesina, tramite l'ambasciata, quando c'era l'ambasciata ancora a Tripoli, ogni settimana chiamava e chiedeva sì. chi era il personale e quanto personale italiano c'era. Io le ripeto, io so che ad oggi c'è una normativa, almeno che non mi vada a sbagliare, in cui non è più necessario registrare il personale italiano che va all'estero. Ci sono ovviamente anche articoli che raccontano di un livello di sicurezza un po' basso, questo ovviamente lei non lo può sapere, per quel che riguarda la sua storia, com'era il livello di sicurezza per lei? Allora, noi in scorta non ne avevamo. Non ne avevate? No, non ne avevamo, ma io negli altri paesi, con le altre aziende con cui sono stato, ho sempre avuto la scorta se era necessario. Qui l'avevo chiesta e mi era stata negata perché l'azienda non voleva darla. Non voleva darla. Ma questo... comunque è un problema di alcune aziende, soprattutto le più piccole. Perché costa ovviamente. La sicurezza costa, quindi alcune, soprattutto le più piccole, non la danno. E questo è un po' il problema, per carità, poi parliamo di una situazione talmente delicata, cioè non è che vogliamo imputare in questo momento, no Oscar, così difficile anche una leggerezza nel muoversi in un paese come la Libia, perché però resta il fatto il primo obiettivo adesso è di portarli a casa, ecco, però alcuni di coloro che conoscono l'azienda e soprattutto i due italiani rapiti hanno dichiarato ieri, no, la scorta c'era ed è stata revocata due giorni prima. Si tratta di capire la scorta, chi l'aveva disposta, l'azienda, chi la pagava, l'azienda, chi la componeva, perché è stata revocata. Non è che per caso, come è già avvenuto in altri episodi con italiani coinvolti, proprio la revoca della scorta comunicata a bande e milizie che operano gli ostaggi è ciò che ha fatto scattare poi la molla dell'avidità e dell'aspettativa del riscatto? Perché ci sta tutto. Senta Salviato, questi 8 mesi le sono rimasti dentro, ovviamente sono qualcosa che non si può cancellare. Non si cancella, comunque si cerca di metabolizzarlo, però è un fatto talmente importante nella vita di una persona che non è che si possa buttare alle spalle. Rimane, ritorna, ma ritorna involontariamente da solo ogni volta che c'è una situazione così o un attentato, qualcosa torna sempre. Si raccontava ieri anche con Domenico Quirico, ci sono paesi nei quali gli occidentali, andrebbe detto, non possono più andare. Secondo lei la Libia, al di là di quello che le è successo, immagino che lei non vorrà rimettere mai più piede in Libia, ma al di là di questo, secondo lei è consigliabile dire guardate, la Libia non è un paese da frequentare anche per lavoro? Per ora no, almeno a mia opinione, poi dipende, perché noi italiani abbiamo tantissimi interessi in Libia, no? Dal petrolio alle costruzioni alle infrastrutture, quindi a meno che non ci vada un'azienda e si strutturi con la sicurezza come deve essere strutturata, capisce? Perché poi, come ha detto lei prima, hanno tolto la scorta ai due colleghi e c'è sempre qualcuno in azienda che avverte o queste bande, esatto, di delinquenti, esatto. o tipo la Sharia, come hanno preso me, perché anche io, da quello che so, sembra che io sia stato segnalato da qualcuno che lavorava in azienda, capisci? Quindi c'è qualcuno che appunto per avidità o per soldi è disposto anche sì. Soprattutto in quei paesi lì, perché comunque dopo la caduta di Gheddafi la Libia ha avuto una discesa economica importante, capisci? Noi Salviato la ringraziamo ovviamente, grazie, lupo, grazie per essere stato con noi Oscar, speriamo ovviamente che vada tutto bene, ecco, poi il tempo delle polemiche se vogliamo ci sarà. C'è anche qualcuno che oggi inizia a sorridere, a polemizzare sulla presunta conversione, o comunque dico presunta perché non lo sappiamo con certezza, però è stata avanzata questa notizia, no? Che uno dei due ostaggi italiani appunto si fosse convertito all'Islam, Calonego in dei due, vedremo, speriamo. E però io mi auguro solo che le autorità italiane non commettano gli errori che abbiamo troppe volte commesso su questa vicenda, ripeto, cioè la storia, siccome i rapimenti degli italiani avvengono contando sul fatto che ci sia il pagamento, chiaro. E nella storia il precedente è che ostaggi italiani passano magari in gestione tra milizie o gang diverse, con tranche diverse dei pagamenti avvenuti, Diciamo questo perché ne abbiamo poi purtroppo le prove, nel senso che grazie alla lotta che altri conducono contro Daesh sono emerse le tranche in liquido pagate dagli italiani, ecco, che l'Italia aveva negato di aver pagato. Stavolta speriamo di evitare almeno gli errori nelle tranche che, diverse, le trattative diverse. Il timore però è che senza pagamento non viene rilasciato. Detto, almeno le tranche, le tranche diverse che purtroppo inducono a passarsi tra le mani le vite degli ostaggi italiani, almeno quelle speriamo di evitarle. Cioè, chi fa la trattativa la faccia professionalmente, visto che è inutile negarla, caro ministro Gentiloni. Tra l'altro, vedi, un ascoltatore, non so, non si firma, dice Laconicos, questa società, è una delle società con più anzianità, sì, tra virgolette, in Libia, ed è conosciuta al consolato che ha gli stessi dipendenti. Conosciutissima, posso dire, conosciutissima. Ecco. Allora andiamo in pubblicità qualche minuto, poi parliamo di cose italiane. C'è un grande fermento, pare, sulla legge elettorale. Hanno annullato elettorale. Il concorso per nominare i dirigenti all'Agenzia delle Entrate. Non era quello. Fermento politico, almeno sembra, sulla legge elettorale. Bah, appassionerà questo argomento tra poco, 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar. Stavi parlando di Brangelina. Io ti ho beccato. No, stavo parlando del concorso dell'Agenzia delle Entrate per l'ennesima volta annullato dal TAR. Perché l'Agenzia delle Entrate niente, non lo vuole fare questo concorso. E sapete la famosa storia dei dirigenti annullati perché perché erano assunti senza concorso, illegittimi, cioè da anni, con l'Agenzia delle Entrate che lo considera una specie di offesa, eccetera, eccetera. E però il decreto in cui dovevano dire come venivano pesati i criteri per il concorso, cioè le prove scritturali, non l'hanno mai fatto, perché tanto evidentemente lo sanno già chi devono, capisce a chi devono farlo vincere. Lo so, sto ipotizzando reati, adesso verrò naturalmente subito minacciato di querela. Sta di fatto che per l'ennesima volta l'Agenzia delle Entrate viene beccata sulla questione della opacità e del rispetto delle norme amministrative. Vabbè, insomma, la storia di San Matteo. La storia di San Matteo di oggi siamo partiti, dovrebbe valere anche per la RAI, ma vedo che non c'è nessuna reazione al fatto che il vertice renziano della RAI abbia fatto 20 nomine su 21 violando la norma anticorruzione. Pensa se l'avesse fatto un vertice della RAI nominato dai 5 Stelle. Sai sui giornali quanto spazio ci sarebbe alle reazioni? Invece l'ha fatto Campo dell'Orto, tutti muti, tutti in silenzio. Non ci sono reazioni. Allora, ma di 5 Stelle e non solo, parliamo della loro proposta di legge per modificare la legge elettorale. Con noi c'è Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, la Camera, capogruppo. Buongiorno Castelli, onorevole Castelli, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche il direttore della neonata Verità, La Verità, Maurizio Belpietro, al secondo numero, è uscito ieri il primo numero. Direttore, buongiorno, eccoci Belpietro. Buongiorno a tutti quanti. Allora, la legge elettorale, devo dire, è un argomento, non so, questo è la mia, forse un mio limite, non appassiona tantissimo, appassiona. Politici, però Laura Castelli, cerchi di appassionare i nostri ascoltatori, far capire esattamente cosa volete. Voi non volete l'Italicum, questo è abbastanza chiaro, lo considerate sbagliato, antidemocratico, perché? Guardi, noi intanto abbiamo fatto un processo per costruire la legge che noi proponevamo e continueremo a proporre come legge elettorale, che non era mai stata fatta nel mondo della politica. Abbiamo chiesto in rete ai cittadini che cosa volevano tra un sistema e l'altro, se volevano le preferenze oppure no. Abbiamo costruito insieme ai cittadini, voto dopo voto, online chiaramente, quella che è la nostra legge elettorale, che infatti abbiamo chiamato Democratellum. Poi quello che insomma avete visto in quei giorni non è nient'altro che la verità. Noi l'abbiamo portata avanti con forza, purtroppo il Parlamento ha partorito l'Italicum. Oggi è vero che non interessa a nessuno, però la politica la usa come merce di scambio. Proprio oggi alla Camera c'è una mozione a prima firma Scotto, che secondo me è anche un modo per fare un piacere al Partito Democratico. Noi abbiamo presentato la nostra ribadendo i nostri punti fermi, ma soprattutto con la chiarezza che secondo noi non è possibile ad oggi avere una legge elettorale ancora senza le preferenze, che il cittadino possa decidere chi deve entrare in quelle. Però Castelli, dicono così, sull'Italicum, con l'Italicum, se il Movimento 5 Stelle dai sondaggi è dato in alcuni momenti come il primo partito, avreste vinto, vincereste. E quindi qualcuno ha detto, ecco, è il chiaro segnale che il Movimento 5 Stelle non se la sente di governare questa legge elettorale diversa che voi proponete. Se fosse chiaro questo, allora l'avremmo votata in maniera favorevole. Noi continuiamo a dire che oggi l'Italicum ha dei criteri di incostituzionalità. Dentro l'Italicum si nasconde un'incostituzionalità abbastanza palese e per noi l'Italia si merita una legge diversa, intanto con le preferenze e intanto con una dei criteri che siano costituzionali, ma questo per il rispetto dei cittadini che hanno il diritto di scegliere chi deve andare lì dentro, hanno il diritto di metterci dentro che non sia condannata o che insomma abbia dei grandi problemi con la giustizia, hanno il diritto di avere delle persone che entrano in Parlamento che siano degne di poter portare la voce dei cittadini e fare delle scelte al posto loro. Questo la politica non lo capisce molto, o meglio, c'è una parte della politica che non lo vuole capire e invece si diverte a rimbalzare le responsabilità dicendo che adesso noi abbiamo interesse a questa legge. Noi l'abbiamo sempre combattuta e anche oggi, infatti, nella mozione che il Movimento 5 Stelle presenta, ribadisce questi concetti. No, l'Italicum, va bene. Non so, io prima di andare, Oscar, vorrei capire da Maurizio Belpietro, direttore della Verità, se... qual è il punto essenziale che i cittadini colgono poi sulla legge elettorale? Non credo che molti cittadini siano appassionati a questo argomento, però perché è importante invece per tutti gli italiani e dovrebbe essere considerato così? Innanzitutto cominciamo a dire che sì, è vero, poco appassionante, ma in realtà ogni governo, ogni maggioranza parlamentare cerca di metterci le mani. E perché ci mette le mani? Ci mette le mani perché ovviamente si vuole costruire una legge elettorale su misura che gli consegni il paese. È stato così con il Porcellum, è così con l'Italicum. L'Italicum è nato sostenendo di voler restituire la parola ai cittadini, in realtà la parola dà soltanto a chi sta a Palazzo Chigi, nel senso che è un modello elettorale fatto e pensato dopo il successo delle elezioni europee e quindi dove si pensava vabbè c'è soltanto il PD in campo, Matteo Renzi in campo, si fa una legge elettorale che insomma gli attribuisce un premio di maggioranza enorme andando al ballottaggio e immaginando di avere contro soltanto il centrodestra e non i 5 Stelle. Poi le cose sono cambiate, improvvisamente qualcuno ha lanciato l'allarme, attenzione che possono vincere i 5 Stelle, tanto è vero che adesso si parla di modificarlo questo Italicum, perché il terrore è che si vada a un ballottaggio e come è successo a Torino e anche in fondo a Roma, cioè i 5 Stelle e soprattutto l'elettorato di centrodestra dovendo scegliere tra gli uni e gli altri preferisca scegliere i 5 Stelle piuttosto che l'attuale Presidente del Consiglio. E questo è il vero tema, diciamoci la verità. Quindi adesso cercheranno di cambiarlo comunque, la mozione cioè, presentata in Parlamento va in quella direzione, quindi 5 Stelle che prima anche erano contrari all'Italicum cercano adesso di riportare il dibattito sulle preferenze, giustamente per certi versi, anche se prima ricordiamoci cioè nel 92 le preferenze furono demonizzate perché in alcune zone del Mezzogiorno poi servivano per fare voto di scambio, c'era tutta una compravendita di voti. E la verità è che nessun modello elettorale garantisce trasparenza. Certo, la parola va restituita agli elettori. Finora mi sembra che sia più nelle mani delle segreterie dei partiti, le quali decidono chi candidare e poi ricattano anche i parlamentari dicendo se non fate quello che vi diciamo non vi candidiamo più. Però a me l'unica cosa che interessa, voglio dire, di questa faccenda qua è che non sono disposto a credere, molto secondario anche agli occhi degli italiani che non si appassionano di queste cose, così secondario l'idea che è meglio tornare alla legge elettorale in cui non si sceglie il governo. Poi lo sappiamo che la forma di governo non è cambiata, cioè il Presidente del Consiglio non si sceglie, che poi dicano i partiti, perché poi il Presidente della Repubblica può continuare a dare l'incarico ad altri. Ma sta cosa di tornare al proporzionale perché tutti hanno paura che vinca... cioè i 5 Stelle, che è un pezzo del ragionamento che ha iniziato a fare Napolitano prendendo a schiaffi, parole povere, Renzi, perché il primo a dirgli guarda bello che devi cambiarla questa legge è stato Napolitano, primo. Poi il centrodestra non lo so se ragiona così, i 5 Stelle tornano a dire proporzionale, però ci troviamo in una situazione, Maurizio, in cui poi vedi la Spagna, cioè che cos'è? I resti del centrodestra pensano così di influenzare il PD con la legge proporzionale, visto che bisognerebbe governare insieme? Non lo so, non mi convinci come quadro. Tu che dici? No, ma ognuno poi fa il proprio conto e sostiene, sì, io magari non vinco ma riesco a condizionare con gli altri. Gli altri dicono qui dobbiamo metterci al riparo perché sennò vincono i 5 Stelle. Sì, Napolitano è stato il primo a parlare, però Napolitano è anche quello che invece fino a prima difendeva quella legge, sostenendo che era intoccabile, che era ormai la decisione assunta, le riforme. Cioè, questo sistema, l'Italicum, è chiaro che non funziona. Se si pensa, se è stato costruito per far vincere qualcuno e solo qualcuno, io penso che gli italiani debbano decidere che governo vogliono, che maggioranza vogliono. Sceglieranno i 5 Stelle, va bene, sceglieranno i 5 Stelle, basta, cioè, come è successo a Roma e come è successo a Torino, non verrà giù un mondo, poi se sbaglia un assessore, qualcuno, scusate, posso dirlo, ma tutta questa polemica, giustamente tu ricordavi, se qualcuno alla RAI decide delle nomine senza rispettare i codici, i posti, tutto, nessuna strida, non si fanno titoloni sui giornali. E da 2 mesi, 3 mesi è arrivata la RAI, ha fatto una nomina, l'ha fatta sbagliata. Sì, si è capito che non è proprio competentissima, ma questo ce lo immaginavamo, è appena arrivata, non faceva prima politica, è molto probabile che si muova come un marziano in Campidoglio. E tutti questi titoli mi sembrano un po' voler spiegare agli italiani, vedete, questi sono inaffidabili. Io non lo so se sono inaffidabili. Io penso che tutti abbiano il diritto di essere messi alla prova, soprattutto se lo scelgono gli italiani. Sì, tra l'altro poi ricordiamo che sull'Italicum pende anche il giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, che doveva esprimersi il 4 ottobre, poi per evitare appunto sovrapposizione hanno deciso di rinviare a dopo il referendum, prima decideranno gli italiani. Ma magari stiamo parlando, Oscar, di una legge elettorale che la Corte Costituzionale giudicherà non legittima dal punto di vista costituzionale. Allora, sappiamo, quindi, con ragionevole certezza, ne correggerà punti fondamentali. Lo vedremo. E sappiamo anche, questo per quello che hanno detto i membri componenti dell'attuale composizione della Corte, non in sede ufficiale, ma nei loro studi, nelle loro interviste, eccetera, che il proporzionale anche nella Corte Costituzionale gode di un grandissimo sostegno. Io dico solo, cari ascoltatori, vogliono tornare alla prima Repubblica in cui non si sapeva mai che governo nasceva perché tutti avevano le mani libere. I partiti ci vogliono tornare, questo è evidente. A me non piace questa idea, però... Questo, alla prima Repubblica, nella quale tra l'altro i governi duravano 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi. Sì, ma tutti adesso pensano, però si stava bene. Però si stava bene. Perché... Ecco, infatti Laura Castelli, perché oggi anche il suo collega, anche il partito Cecconi, in un'intervista al Corriere dice, sì è vero, duravano poco i governi, ma il paese è diventato grande. Cioè abbiamo questa nostalgia della prima Repubblica? Guardi, io voglio sottolineare due cose. Uno, che sulla questione preferenze... Il Movimento 5 Stelle non è fissato, ma nel 2007 avevamo fatto un V-Day dove chiedevamo alle persone di firmare per arrivare a questo punto, cioè a sancire il fatto che in una legge elettorale ci volessero le preferenze. Due, vorrei parlare di questa parola stabilità. Io mi occupo di temi tecnici, di temi economici, e quindi la parola stabilità di governo, insomma, non mi suona esattamente come alla vecchia politica. Io credo che in questo momento l'Italia sia in una condizione di instabilità totale, con delle riforme che sono costate troppo in termini di diritti, pensiamo alla sanità, pensiamo al Jobs Act, sono costate troppo. Oggi i diritti hanno un prezzo troppo alto, sia dal punto di vista del bilancio pubblico, perché quando si spendono 10 miliardi per fare una riforma come il Jobs Act e si hanno numerosi posti di lavoro che saltano, svendendo così il diritto al lavoro, c'è qualcosa che non funziona. Posso parlare della sanità, dove sono stati tagliati 10 miliardi da molto poco, e costa il diritto alla sanità, in questo momento costa. Quindi io credo che parlare di stabilità solo governativa sia un errore. Oggi l'Italia è in un'instabilità grossissima, i cittadini sono all'orlo del baratro, oltretutto all'orlo di una crisi di nervi, perché giustamente. Però questa è una critica alle politiche di governo, però una stabilità politica c'è, voglio dire. Ma poi lei può fare tutte le critiche alla linea del governo che vuole. Però io intendo, la stabilità politica si misura anche rispetto a come stanno i cittadini che stanno sul suo paese, perché se no vedetevela tra politici e noi No, noi cittadini, è chiaro. Lasciamo fare, questo non è possibile, cioè il Movimento 5 Stelle crede nella partecipazione e la legge elettorale è il primo strumento attraverso il quale i cittadini si confrontano. Vabbè, con ma la questo vedo che vuole, ma questo proporzionale si disfano le maggioranze, se ne fanno altre, si disfano le guide dei governi, se ne fanno altre rispetto a ciò che hanno indicato gli elettori nelle urne, che io sono d'accordo con voi, è il principio fondamentale a cui guardare. Siccome lo abbiamo visto, che cos'è la proporzionale, per decenni, io non me lo sono dimenticato e ho visto che cosa questo ha generato nelle correnti dei partiti, nella spoliazione per il finanziamento delle correnti dei partiti nelle aziende pubbliche. Abbiamo calpestato le regole di bilancio pubblico, lo abbiamo fatto per quello. Il proporzionale era uno dei motivi fondamentali della malattia italiana. Ma si vedrà poi la legge elettorale. In conclusione vorrei chiedere a Maurizio Belpietro, e tra l'altro esce appunto anche con questo libro uscito, I segreti di Renzi, e perché buttarsi nell'avventura di un nuovo... Libro che gli è costato la direzione. Sì, di un nuovo e quotidiano. Consentimi di aggiungere che lo abbraccio per questo, perché io sono passato con la stessa proprietà, per le stesse ragioni, sottoposto alla stessa cosa. E quindi bravo ad averlo scritto. Però perché La Verità e perché un nuovo giornale? È un po' un'avventura da pazzi, Belpietro, no? Sarà un'avventura da pazzi, ma è un'avventura affascinante, perché poter raccontare in piena libertà tutto quello che si può raccontare, quello che noi giornalisti riusciamo a verificare, a toccare con mano, a scoprire, è la cosa più bella di questo mestiere. Io dopo 41 anni continuo a essere affascinato da questo mestiere, cioè a me non piace che qualcuno mi picchi sulla spalla e mi dica no, questo non lo puoi scrivere, non mi piace che qualcuno mi dica ci disturba. Io voglio fare il giornalista, non voglio né vendere posti letto né occuparmi di piazzare immobili o altre cose, no, avrei fatto l'agente immobiliare, che è un mestiere di tutto rispetto, ma non è il mio. Quindi, detto ciò, penso che la carta stampata abbia ancora un futuro se vogliamo diffondere l'informazione. L'informazione dai giornalisti, professionisti, si mettono lì con pazienza, ricostruiscono le cose, sentono le persone, verificano i fatti e poi li raccontano. È il nostro mestiere. L'ho fatto con il giornale, l'ho fatto con il libro che è appunto in libreria, ricostruendo tutta una serie di fatti che riguardano anche l'economia, perché ormai la politica e l'economia, gli interessi, sono legati. Gli affari dei grandi gruppi sono legati e si mescolano alla politica, finanza, le banche, insomma lo stiamo vedendo anche quello che succede in... Vedi i milioni sanitari degli Angelucci, per essere chiaro. Vedi i milioni sanitari degli Angelucci e la relativa trattativa. Racconto alcuni dei retroscena che ci sono dietro quella vicenda, perché non è importante la vicenda mia in sé, che no. Secondaria, chi se ne importa, un giornalista perde un posto di lavoro, c'è tanta gente che ha perso un ma posto quello, di lavoro, è quello che c'è dietro. Sta peggio di quanto stiamo noi giornalisti, che comunque alla fine abbiamo la possibilità di parlare, anche se qualcuno cerca di bavagliarci. No, ma è il chiaro. Problema è che dietro ci sono degli interessi e che si nascondono delle notizie per difendere questi interessi. Allora, fermiamoci qui e ringraziamo Maurizio Belpietro, direttore della Verità. E torniamo dopo. Torniamo dopo il giornale radio. State. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Sebastiano Barisoni. L'arrivo del nuovo amministratore delegato del Monte dei Paschi, Marco Morelli, è stato festeggiato, si fa per dire, dalla borsa, con il peggior calo a Piazza Affari tra i titoli a maggior capitalizzazione. Dopo qualche giorno di pausa, quindi, si riaprono le speculazioni sul Monte dei Paschi e tutti i dubbi restano, anche se possibile, acuiti. Il titolo a questo punto in borsa capitalizza 500 milioni di euro, ossia un quinto di quanto vale il patrimonio complessivo del Monte dei Paschi di Siena, ma soprattutto non si capisce come potrà chiedere 5 miliardi, ossia 10 volte tanto, di aumento di capitale sul mercato. Ecco perché si inizia a ragionare l'ipotesi che possono essere convertite in azioni alcune obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi in mano agli investitori istituzionali, che già molto hanno guadagnato dai rendimenti, e come conseguenza anche ieri il valore delle obbligazioni subordinate è sceso di pari passo. In realtà la strada è tutta in salita anche perché agli investitori internazionali non piace affatto l'idea che possa contribuire all'aumento di capitale del Monte dei Paschi una cordata, un pool di banche italiane. Infine c'è chi spera che le difficoltà di un colosso come Deutsche Bank in Germania, se dovessero portare un intervento dello Stato tedesco, potrebbero permettere o aprire uno spiraglio anche per il Monte dei Paschi in Italia. Insomma, poche idee ma confuse, con una variabile che è assolutamente indipendente: il tempo. Più a lungo si manterrà questa incertezza sul Monte dei Paschi, più a lungo saranno offerte possibilità alla speculazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Allora, eccoci qui, i noi due, siamo io e Oscar Giannino, siamo qui fino alle 9.30, anche oggi, domani, venerdì. Sì, sapete che c'è un prontuario di mandarino, di cinese, sì, di cinese. Milan, e nelle pause, diciamo, le radio, studia il mandarino applicato alle situazioni bancarie. Sì, per capire bene le credenziali, è preoccupato. No, diciamolo per chi non l'ha ascoltato, secondo Bloomberg i cinesi che si vogliono comprare il Milan hanno presentato delle credenziali bancarie false. O non so, magari un po' montate, un po' tarocche. Adesso uno magari c'hai 100.000 euro in banca e dice che ne hai 130, non è che proprio sta lì a guardare il capello. Non lo so, vedremo, comunque scopriremo. Ci sono degli ascoltatori che erano rimasti lì da un po' e li ringraziamo per essere ancora con noi. Giacomo da Roma, buongiorno Giacomo. Buongiorno a tutti. Io volevo intervenire solo su questa circostanza di cui si sta parlando stamattina, ho sentito anche in altri radio, ossia sul fatto che nella Prima Repubblica il governo cascava ogni 6 mesi, però si viveva bene, si stava bene, per carità, io l'ho vissuta perché ho 50 anni, ma nella Prima Repubblica, come anche forse anche adesso, il benessere non parte dalla stabilità degli amministratori politici, il benessere parte dalle aziende, dalle imprese. Nella Prima Repubblica le imprese lavoravano e avevano più libertà di lavorare bene. Quindi non lega al mandato politico questo benessere. Ma i politici non sono assolutamente in grado di dare benessere alle aziende, casomai riescono a imbrigliarle. Quando con l'ingresso in Europa abbiamo dato un'ulteriore zavorra da sopportare a queste aziende. Quindi il benessere purtroppo è stato ucciso piano piano con tutta una serie di norme. Traduciamola così, lei direbbe si stava bene nonostante i politici. Assolutamente, si stava bene nonostante l'instabilità politica, perché comunque la ricchezza veniva generata dalle aziende e le aziende pompavano, andavano forte, erano diciamo ad ottimi livelli, perché l'italiano lavora, cioè quelli che erano per strada, quelli che sono per strada a lavorare, continuavano a lavorare, lavoravano indipendentemente se il governo c'era o non c'era. Loro erano lì, pensavano ai loro interessi, non era un grande problema per le aziende, che riuscivano a essere molto più libere. Purtroppo poi piano piano sono state sempre più legate, sono entrati in dei tunnel che le hanno viste purtroppo. Va bene Giacomo, questa è la sua analisi politica, che è diffusissima, perdonate cari ascoltatori, voi dimenticate che una parte fondamentale di ciò che rimpiangete era l'effetto ricchezza dei titoli del debito pubblico con cui vi hanno infinocchiato. Da quando nell'81 non erano più le banche pubbliche, la Banca d'Italia, a dover comprare e assorbire tutto il debito pubblico, lo Stato ha scoperto che dovevate assorbirlo voi, e con l'inflazione a doppia cifra vi è illuso per anni sul fatto che il vostro reddito cresceva. Voi ci avete creduto, avete tutto investito sul mattone di qua di là, dopodiché quando aprite gli occhi non è che cambiate idea rispetto al fatto che in quegli anni lo Stato è cresciuto facendo debito e voi ve lo siete presi dicendo ma guardate che interessi alti che ci dà lo Stato, che bello, che bello. Volete tornare a questo e rimpiangete tutto questo. E va benissimo, d'accordo. Può essere che bisogna ripetere gli stessi errori perché per poi rinnovarne l'effetto. Beh, siamo così ciclicamente, come il bambino che ogni tanto un piccolo scappellotto bisogna darlo per e in questo caso a chi vuoi che lo dia lo scappellotto agli italiani? Perché poi quello che diceva il nostro ascoltatore, in parte fondamentalmente è vero che la pressione fiscale all'epoca era più bassa, ma con un paese a questo debito pubblico, se casca un governo ogni sei mesi, guardate, paghiamo di più di interessi noi tutti, non sì. so se è chiaro. Quello, ecco. quello che però capisco dell'ascoltatore, sono d'accordo con lui, è che legare il benessere sì, alla sì, al presenza governo, certo. politica, alla stabilità, eccetera, non è che nella prima repubblica c'era benessere per altre cose, perché certo abbiamo creato quel debito pubblico che ci ritroviamo, abbiamo goduto di quelle vacche grasse, però non era legato alla stabilità o instabilità dei politici, sono altre cose. Anzi, il debito era cresciuto dall'instabilità, gli italiani compravano più titoli, botti, ci davano le pensioni, ci davano le baby pensioni, quindi c'era benessere. Avete capito che era una fregatura, ragionate sul perché. O ci volete tornare? Voi, molti di voi dicono no, ci voglio tornare. Intanto ci chiama Daniele da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io volevo tornare sulla questione della legge elettorale. Sì. Mi sembra che qui l'attenzione in questi giorni della stampa si stia concentrando troppo sui 5 Stelle e poco sul fatto realmente grave, cioè la notizia grave è che i politici si stanno per l'ennesima volta facendo la legge non per i cittadini ma per loro, e questo fatto che fino a ieri veniva in un certo senso mascherato, oggi lo si ammette alla luce del sole, e questa cosa invece passa un po' in secondo piano come se è normale, tutto a posto. Guarda Daniele, io credo che i politici o chi è al governo pro tempore, ora Renzi prima gli altri, si cerchino di fare una legge elettorale che è la migliore per vincere, non la migliore per perdere. Questo è gravissimo. Non è che sono leggi elettorali, le leggi elettorali dire... nascono per quello. Però mentre questa cosa è palese, ovviamente dicendo cittadini... quella che crea stabilità, non è che fanno la legge elettorale dicendo basta nominare Daniele da Bologna e quello diventa premier. Però ecco. Mentre per i giornalisti come Belpietro prima, per noi, per voi è tutto abbastanza chiaro, se tu provi a chiedere, io non ho sentito ancora un politico, in primis Renzi, ammettere questa cosa, che invece è a chiara luce del sole. Dicono sempre di farlo per l'interesse nazionale, mica per vincere loro. Vabbè, ma la storia dell'Italicum, la storia dell'Italicum è abbastanza emblematica di questo, cioè è stata fatta quando si è scoperto che il 5 Stelle era il primo partito, si è cominciato a dire forse l'Italicum va cambiato. E allora il giornalista bravo incalzasse quelli che hanno fatto questa legge su questo argomento. Come vedi, di questo stiamo cosa parlando. Cosa vuol fare il 5 Stelle? Tanto di quello che voglio fare il 5 Stelle non gliene può fregare niente a nessuno, perché non saranno loro a cambiare né né a fare la legge elettorale. Però, per esempio, sempre sull'Italicum, siccome si è detto anche prima, lo diceva Belpietro, sul ballottaggio, almeno storia di Roma, storia di Torino, il Movimento 5 Stelle viene dato per favorito. Eppure oggi sui giornali si racconta che Renzi, se qualche modifica ci può essere all'Italicum, su una cosa, non, su questo paletto non transige l'idea del ballottaggio, per dare l'idea agli italiani che quando si vota la sera stessa si sa chi ha vinto. Quindi su questo, pur essendo uno strumento che in teoria favorirebbe il 5 però, Stelle... Allora, se i 5 Stelle vogliono cambiare la legge è perché non vogliono governare. Se non la vogliono cambiare è perché anche loro allora vogliono governare con una legge incostituzionale e quindi si rimangiano le parole all'inizio. Cioè, qua mi sembra che il pretesto è sempre di dare addosso ai 5 Stelle. Quando i 5 Stelle sulla legge elettorale purtroppo non c'hanno niente a che fare. Va bene, Daniele, tanto chi vivrà vedrà. Cioè. Caro Oscar, qua vedi Giannino, basta, ti urlano il tuo basta. Stavamo meglio, tutti lavoravano e pagavamo qualsiasi interesse. Oggi lavoro zero, banche bandite, vabbè, dici politici coglioni. Tornate a Pomicino e a chi vi illude e piglia per il culo promettendovi che tornando alla liretta siete più ricchi. Vi pigliano per il culo, vi fate prendere per il culo, sono brutale perché la penso così, perché chi ve la racconta così sa perfettamente che sta mentendo, però d'accordo, come volete. Va bene, meno male che non ha sentito niente delle tue parolacce il dirigente scolastico Maurizio Lazzarini, che invece insegnerà ai propri allievi di usare un linguaggio consono. Professor Lazzarini, buongiorno. Ho già messo una nota sul registro. me la merito. Dirigente scolastico al liceo scientifico statale Fermi di Bologna, che ogni anno manda un saluto come si deve fare alle famiglie, alla faccia, no? Del saluto. Ogni anno, è vero che ogni anno lo fa? Assolutamente. Una lettera di saluto. Quest'anno ha messo un decalogo anche insieme a questa lettera. Un decalogo al contrario, diciamo. Sì. come dire, care famiglie, seguite pedissequamente questo decalogo e la scuola andrà allo sfascio. Questo la scuola fallirà. Fallirà. Per esempio, ci dica alcuni punti del decalogo. Intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Seconda cosa, il decalogo adesso vi recito qualche punto, ma va contestualizzato, nel senso che era la provocazione iniziale di un discorso più lungo che chi ha voglia e bontà può leggere, e la frase subito dopo il decalogo dice: al contrario, se vogliamo il massimo successo per i nostri ragazzi non c'è alternativa alla massima collaborazione. Quindi era una provocazione ironica, i genitori miei mi conoscono, non siamo nel Bronx, siamo in una bella scuola dove c'è una bellissima collaborazione tra tutte le componenti, c'è proprio una comunità scolastica che cresce negli anni sempre di più. Detto questo, anche qui è chiaro che non sfuggono alcune storture che i giornali poi riportano anche a livello nazionale, quindi anche qua abbiamo genitori che per esempio danno sempre colpa alla scuola, no? Sì. I ragazzi non studiano perché non sono motivati allo studio, non fanno i compiti perché il pomeriggio hanno altri impegni, cioè c'è un po' un'ottica di dare la colpa e non c'è l'ottica necessaria invece, secondo me, della responsabilità, cioè non c'è da parte di tutti gli adulti il concetto che insieme ci dobbiamo prendere delle responsabilità senza dare colpe. E quindi lei ha fatto queste provocazioni, per esempio, dai, ce ne dica alcune. Per esempio, credete loro anche contro l'evidenza. Cioè, credete ai figli sempre. Sì, sempre. Date sempre la colpa alla scuola, giustificateli sempre comunque, poverini. Non sosteneteli nel loro impegno quotidiano, quanta fatica. Non premiate mai il loro sforzo. Evitate di parlare con i docenti e soprattutto sostituitevi ai vostri figli e cercate di eliminare tutte le esperienze che li possano mettere in difficoltà. Perché c'è questa tendenza che si capisce, ma che è davvero deleteria, soprattutto per degli adolescenti come quelli che abbiamo qua. Ricordiamolo, questi consigli sono ironicamente polemici, perché andrebbero applicati al contrario. Al contrario, invece voi applicate questi, cari genitori, la scuola fallisce. Ripeto, non c'è alternativa a prendersi insieme, collaborando, la responsabilità dell'educazione e della crescita. Insieme, voglio dire, docenti, i genitori e gli stessi studenti, perché da noi entrano bambini ed escono uomini e donne, tra l'altro col diritto di voto, insomma, no? Visto, sentivo che parlavate appunto dell'Italicum prima, quindi sono le persone che in qualche modo incidono anche sul nostro futuro. Sono bambini e hanno il bonus 500 euro a 18 anni per caso, ovviamente, mica perché votano la prima volta, per caso. Certamente. Però vede, lei ha messo le mani avanti all'inizio, ha fatto il politicamente corretto. Io mi auguravo invece che l'autore, che io invidio molto, fantastico, di questa provocazione sul Furea, perché è così, un preside che scrive alle famiglie, quello che ha scritto lei, io l'ammiro perché mi sembra uscire fuori dal maestro Margherita Bulgakov, cioè è una cosa che non torna molto con l'idea che ho del dirigente scolastico piegato perché le famiglie rompono i coglioni, perché bisogna evitare i problemi, perché i docenti rompono i coglioni ancora di più, perché non vogliono che tu, dirigente scolastico, faccia alcunché di cazzo di scelta, perché vogliono il collettivo. Allora, lei ha scritto una cosa che è fantastica e poi, giustamente, lo capisco, l'ha presentata politicamente in maniera correttissima, c'è un'ottima collaborazione di qua, tutto a posto. Allora, io lo capisco e quindi l'ammiro ancora di più, però la domanda è: ma qualche genitore si è fatto girare la scatola dicendo oh, la tua ironia mettetela in tasca, o no? No, allora, della mia scuola no. Ho ricevuto tante mail di addirittura un ingegnere di Torino con 5 figli che se l'è presa con lei. Ma perché? Sì, ma va bene, voglio dire, d'altra parte, come dire, nel mio ruolo c'è compresa anche un'indennità di parafulmine, no? Quindi dico sempre che nel mio stipendio è compreso anche quello. Quindi, dica così, perché sennò chi ascolta crede che ci sia, non c'è, è ironia, c'è. Anche questo, non c'è. Sì. Ah, bravo, io vedo, non sono abituato alla comunicazione. No, perché se lei dice così a casa dico ah, ladro, anche l'indennità da parafulmine. Ecco. Poi basta andare sul sito della mia scuola e vedere quanto è il mio stipendio, che non è solo l'indennità di parafulmine quello che prendo, quello è il mio stipendio. Ma io penso che se si fa una cosa con passione, come cerco di fare io, lo stipendio, quando c'è il necessario per vivere, passa sinceramente in secondo piano. Ma no, ma guardi, intanto noi la ringraziamo, professor Lazzarini, poi degli stipendi stipendi dei dirigenti scolastici, abbiamo parlato proprio ieri, esatto, che sono tra i dipendenti della pubblica amministrazione dirigenti i più bassi, mentre i più alti, Oscar, sono quelli dell'agenzia delle entrate, ecco, che devono riflettere su San Matteo. Me lo ricordavo e benissimo, risolvere il problema di avere dirigenti come tutto il resto della PA fatti per concorso, perché l'ha stabilito la Corte Costituzionale e siamo a 2 anni, senza farsi annullare il fatto che i criteri per il concorso sono ancora una volta non in regola con i requisiti di trasparenza. È bellissimo stuzzicare Oscar, perché io me lo ricordavo benissimo dei dirigenti dell'agenzia delle entrate, ma tu glielo ridici e lui riparte. Ma lui bello riparte, perché come si vede concorrono sempre gli stessi errori e ci fanno le prediche etiche, avendo un evidente buco sull'etica propria. A proposito, caro Oscar, sei passato di recente a Roma a mettere la mano nella bocca della verità? Io una volta credo di averla messa la mano nella bocca della verità. Io credo una più volte, sì, credo più volte, perché è un gesto apotropaico, no? Sì, famoso dalle vacanze romane. Poi alla chiesa lì, spesso in Comerino, di fronte a dove ci sono il Tempio di Vesta e così via, sul Lungotevere, c'è una, di solito una fila infinita di soprattutto gli asiatici, ma anche gli americani. Eh sì, soprattutto gli stranieri. Perché no? È una cosa, la foto lì è uno dei riti di passaggio per dire sono stato a Roma. Eh sì, il caso della bocca della verità. La leggenda vuole, insomma, se uno mette la mano e dice una bugia, gli viene tagliata la mano. Questo era un po' tombino. Lo sai, no? Ah, era un tombino? Era un tombino. Non lo sapevo questo, non lo sapevo. Però c'è un, ma non so se dire un giallo, ma ieri Claudio Strinati, storico dell'arte, grande, è stato anche dell'arte, sovrintendente della cultura a Roma. Sì. Professor Strinati, buongiorno e grazie di essere qui con noi, benvenuto. Lei sul Messaggero ha raccontato il caso della bocca della verità, ma è vero che c'è stato, ci aiuti a capire, c'è stato un periodo o c'è un dibattito sul mettere a pagamento la fruizione della bocca della verità, 2 euro a foto, è così? No, non c'è stato nessun dibattito, ho soltanto saputo il giorno prima che il rettore della chiesa aveva messo un biglietto appunto, per una cosa che così io più o meno sapevo, ecco, questo che è un fatto appunto così, turistico, così, un piccolo divertimento, per cui probabilmente si chiede naturalmente di dare un'offerta, no? Sì, come si usa, eccetera. Però l'offerta è una cosa, insomma, il biglietto, sì, l'offerta è una cosa. Il biglietto è un'altra. E allora così, se ne è un po' parlato sul Messaggero e io ho detto la mia. La sua, appunto, la ripeta anche per i nostri ascoltatori, e le sembra legittimo, le sembra giusto mettere un prezzo di 2 euro per fruire di questo bene culturale? Oh Dio mio, insomma, io l'ho messa in questi termini, a me sembra, non sembra né giusto né non giusto, cioè mi sembra tutto sommato abbastanza normale. Il problema però è un altro, non è i 2 euro, almeno dal mio punto di vista, è un problema di ordine generale sul fatto del pagare o non pagare diciamo i beni culturali quando non sono esplicitamente un museo, no? In cui tu in effetti... nel nostro paese più o meno i musei si pagano, sì, e va bene, poi si può discutere se sia giusto o se non sia giusto, ma c'è poco. In molte altre nazioni non si pagano, no? Mm-hmm. Soprattutto nei paesi anglosassoni c'è una concezione un po' diversa dalla nostra, per cui niente, in pratica viene molto esaltato il fatto del servizio pubblico, sì, assolutamente pubblico, per cui in realtà tu vai lì, però sei sollecitato a dare un'offerta. A dare un'offerta. Vabbè, e lo fai, insomma, lo fai. Per cui in pratica paghi il biglietto senza pagarlo, però formalmente, cioè, perché il biglietto sostanzialmente è una diciamo, nel nostro paese è una tassa, sì, perché noi lo chiamiamo biglietto, è una tassa, per cui si paga la tassa di ingresso. Nei paesi anglosassoni si tende a non farlo. Cioè, vabbè. Allora da noi c'è questo sancio. Allora, quando tu in una chiesa che non è, perché in pratica la bocca della verità sta all'aperto, però è dentro una chiesa, in pratica è nel portico di una chiesa. Allora a Roma l'usanza di pagare la visita di una chiesa non c'è. Sì. È una cosa, e quindi questo è un po' il punto controverso. Controverso è questo, perché fa parte della nostra tradizione. Naturalmente si può obiettare che sia una tradizione sbagliata, però insomma, a me ha fatto un po' impressione. E allora ne ha scritto sul Messaggero. Insomma, il concetto qui è capire se non è esattamente appunto un museo, la Bocca della Verità, ma fa parte del patrimonio di questa chiesa. Allora, io corrosivamente dico: primo, non so sospetti al direttore, rettore, come si chiama, di Santa Maria in Cosmedin, di Santa Maria in Cosmedin, stabilire che una delle cose che culturalmente, turisticamente è più collegata al mito della Roma classica per tutti i turisti del mondo, si paga 2 euro. Non credo che spetti a lui, punto numero uno. È una sollecitazione di offerta, nota non è una sollecitazione, pagate 2 euro, no, io non credo che spetti a lui, perché ha un impatto quella roba lì, quel manufatto casuale che è un tombino romano, però ha un impatto su tutto il resto del mondo, che secondo me non spetta al, siccome mi consumano il portico della chiesa, allora sì, mi pagate 1, 2. Invece a me è piaciuto molto il pezzo del professor Stranieri, perché coglieva un punto, cioè quando è che ci diamo delle scelte coerenti in materia di chi deve pagare quanto per i beni culturali, perché questo è il punto di fondo. Ma il mondo anglosassone non obbliga a pagare il biglietto, ma coinvolge i privati innanzitutto fiscalmente, come donors incentiva moltissimo a tenere in piedi le strutture, e secondo poi li sollecita anche con una certa induzione commerciale a pagare all'ingresso pur non essendo obbligati. Quel modello genera molte più risorse di quello di cui è capace il nostro, e dovremmo interrogarci su questo. Intanto però, cari preti, adesso non facciamo pagare ai turisti le cose è di un cui sollecito, siete custodi è un sollecito casuali, come quello delle agenzie delle entrate, casuali, è un sollecito, cioè, siate all'altezza di questo rango di essere custodi un patrimonio di questo tipo. Questa non l'hai colta, che è un sollecito come quelli delle agenzie delle entrate. Esatto. Non fate anche voi l'agenzia delle entrate. Renzo da Roma, dai, concludiamo con lei. Renzo, buongiorno. Sì, buongiorno Giannino e buongiorno Milan. Eccoci. Io volevo ritornare un attimo sull'argomento precedente, cioè quello del debito pubblico. Sì. Io vi ascolto sempre, specialmente lei Giannino. Abbiamo 30 molto. Secondi dica. Però, Renzo, sì, dica. Una cosa veloce. Allora, io sono un piccolo imprenditore, sono 40 anni che svolgo attività commerciali e con la lira in effetti si riusciva anche a metter via qualche cosa. Ora con l'euro non si riesce a mettere via niente. Lei sostiene che era un'illusione prima, che era tutto dovuto al debito pubblico. Sì. Io mi chiedo come mai il debito pubblico oggi che non c'è più quell'illusione continua ad aumentare? Ancora? Ecco. Mi fermi qui. Come mai? Perché continuiamo a spendere, signor mio. E chi lo fa il debito pubblico? Io? Lei? No. La politica lo fa. Grazie ai bassi tassi dell'interesse dell'euro nei primi anni, invece di riformare, spendere meno e abbassare la spesa, ne abbiamo speso di più. Ma non è che con la lira avremmo speso di meno, visto che il debito pubblico l'abbiamo accumulato con la lira, come continuiamo ad accumularlo anche con l'euro. C'è ancora perché si è accumulato negli anni. Perché i politici continuano lo stesso errore, vi dicono solo che con più spesa se ne esce, infatti si vede. Va bene, fermiamoci qui, dai. Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Vescapè in regia insieme a noi, vi danno appuntamento a domani alla San Matteo, San Matteo, tu te n'eri andato dall'agenzia dell'entrata. A domani.